Cantine di Franciacorta. Un saluto da Adro, dove facciamo tappa oggi per visitare la cantina Cola Battista, azienda a totale conduzione familiare, da circa 10 ettari di vigneti trae uve per 60.000 bottiglie, 35.000 Franciacorta. Qui la metà dell'elettricità necessaria alla cantina è generata da pannelli fotovoltaici. Stefano Cola, qual è il cuore del vostro lavoro? Quello che tiene in piedi tutto naturalmente è la passione, la voglia di fare, la voglia di creare, la voglia di stare in contatto con la natura, con la pianta, vederla crescere, vederla produrre. Se grandina soffri, se prende le malattie soffri, se hai un buon prodotto in cantina sei contentissimo. Però questo ti lega inevitabilmente alla natura, cioè, per cui sei legato alla pianta e sei legato al suo ciclo di vita praticamente. Un saluto e alla prossima tappa. Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.